24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Che questa esperienza di accordo con il PDL possa andare avanti molto. Cioè, io voglio bene a Enrico, ma non fa mica poco a governare con Brunetta, con Schifani. Tutti i giorni deve parlare con Brunetta e con Schifani. Ai ai ai Renzi, ai ai ai, ma perché tutti i giorni lì a dire, ma insomma... Sì, sì, non ce la contraffine tre, Mila, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pieno così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Vabbè, dicevo, ai ai ai Renzi, ma che fai tutti i giorni lì a dire, a sfrucugliare, a graffiare, a grattare, ah non ce la si fa, il governo non ce la fa, non so, Letta deve parlare con Brunetta, Schifani, vabbè è così, ecco dico anch'io così, vabbè è così, è così. Buongiorno, questo è 24 mattino, sono con Alessandro Longoni in redazione, sono con Carmelo Lauricella in regia, oggi siamo andati a comprare i giornali in edicola, non ci hanno portato i giornali, siamo proprio uno che corre, prendi 5 euro, corri, vai, e allora abbiamo, vabbè, al Sole 24 Ore ce l'abbiamo, qui siamo alla radio del Sole 24 Ore, facciamo poca fatica, ma gli altri giornali, corri, vai, arrabattati, compra, è così, e un po' ci arrangiamo oggi. Voglio salutare chi? Voglio salutare una persona che si affaccia per la prima volta nel nostro Parlamento, Matteo Richetti, onorevole del PD, buongiorno onorevole, come sta? Buongiorno Milan, bene, beh, è la prima volta al Parlamento, ma con lei non è la prima volta. Sì, no, ci sentiamo, proprio, però la facevamo dormire un po' di più le altre volte. No? Vedo, ma va bene che anche noi ci abituiamo a starci un po' prima la mattina, quindi ottimo. Bravo, politici, lavorare subito, produttivi. Richetti lo devo dire, Renziano di ferro, e quindi tra poco magari ci aiuterà a capire qualcosa. Richetti, le voglio presentare invece uno che ogni tanto si affaccia con il rullo di tamburi, il nostro mitico Alberto Forchielli. Buongiorno Albertone, dove ciao, sei? Ciao, grazie a tutti. Dove ti trovi? Sono a casa, Imola. Ah, Imola! Sì. Oh, finalmente riaffacciato in Italia. Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Forchielli, che c'ha Renzi? Cosa combina Renzi? Adesso è andato, prima di chiederlo a Richetti, che dirà che è tutto a posto, bravo, buono. Cosa fa? Va dalla Merkel, va dice che Letta non dura. Come mai? L'Italia è un governatorato, non è più un governo sovrano, per cui prima di proporsi come candidato deve ottenere le credenziali e l'appoggio su coloro che hanno in mano il nostro credito. Insomma, se lei ha un mutuo del 130% sulla casa, Alino, prima di rifare il cesso parli con le banche, se no rifai il cesso ti portano via la casa col cesso nuovo, capito? Per cui questo è il viaggio dovuto. Allora... Poi Renzi, se è uno con cui non si debba mai fare la doccia, è un altro paio di maniche. Questa cosa vuol dire? Non bisogna... Vabbè, no, se ti scivola la saponetta e ti chiedi, ti cula, sì, lì, cioè, capito? No. È di un'ambizione smisurata. No, Richetti ha capito qua, Forchielli, lo conosce, sì, Forchielli, sì. Lo conosce. Ma infatti la Merkel ci siamo conosciuti ad una trasmissione, subito perché l'immediatezza non manca, Forchielli, come cantava Vasco, si fa capire bene quando vuole. Si fa capire bene, Forchielli, si fa capire bene, cioè questa dell'immagine della doccia, io all'inizio, cioè così è Renzi, secondo lei, Forchielli? Ma guardi, c'è una roba che io non nessuno può essere così ambizioso, così di fare il primo ministro in questo paese senza un vero programma in mano. È troppo ambizioso per i miei gusti. Invece in un mondo di persone normale fare il primo ministro in questo paese richiede due cose. Primo, un programma solido, sì. E secondo, una grande umiltà. Nessuno può desiderare un lavoro così di merda. Sì. Allora, quando vedo uno che è troppo ambizioso di arrivare lì, in me scattano tutti i meccanismi della difesa. Soprattutto, soprattutto se questa persona ci va senza un programma, perché io ho chiesto qui ai sindaci dell'Emilia Romagna, che tutti stanno diventando renziani, no? Sono tutti, li conosco. Sì, sì. Sì, poi ha detto, ma io dico, io non guardo la televisione italiana, ma che cosa propone Renzi? Ma adesso vediamo, capito? A me quel programma di abbassare i costi della politica non è una roba di che rilancia il paese, capito? Sembra un po' sono uno spot. Sono cose populistiche, la cosa fondamentale è aumentare la qualità della politica, sì, non abbassarne i costi. E allora, perché i costi allora della politica sono un di cui cioè, dei granellini. Allora, Richetti, qui abbiamo subito svegliata con dei bei temi leggeri, no? Qui c'è da dire, intanto, perché Renzi è andato dalla Merkel? Dice visita privata. Richetti, come mai visita privata? Cioè, ha ragione Beppe Grillo a dire è andato a baciare l'anello? Ho parlato con Matteo prima della visita e dopo la visita. La visita è nell'ambito del fatto che sarà pur vero che non si fa il cesso senza parlare con chi ha l'ipoteca sulla casa, ma è stato di tutt'altro tenore, insomma, ci hanno raccontato negli ultimi 5 anni che l'Italia è un paese che non si riesce a rilanciare a causa dell'Europa, dell'euro, della Germania, perché ci sono le politiche cattive di rigore, dopo che per 15 anni ci hanno raccontato che non si poteva rilanciare perché c'erano i comunisti, cioè non se ne può più, è giunta l'ora di costruire tra leader europei, e ci piaccia o no, Matteo Renzi è uno dei pochi leader sulla scena politica italiana in questo momento. E se posso dire qualcosa, insomma, vorrei dire due robe anche sul fatto che sarebbe senza il programma, perché insomma detto da me mi rendo conto che rischi di essere la difesa di del piano, come ha definito lei. Invece no, ce lo però, dico, cioè, però io non capisco perché non si ha la stessa lo stesso rigore, la stessa insomma, modo esigente verso gli altri che governano per anni occupandosi delle battute di Calderoli, dei processi di Tizio e di Caio, degli scandaletti sotto casa. Renzi si è candidato attraverso le primarie a guidare il paese, abbiamo perso e abbiamo sostenuto chi poi non ce l'ha fatto ugualmente, ci siamo presentati con un grande piano per la semplificazione, col Job Act, attenzione Mila, non dicendo riduciamo il costo del lavoro o riduciamo i costi della politica, ma dicendo anche come fare, ne ricordiamo solo alcuni esempi. Chi vi parla, tra l'altro, giovedì al decreto del fare ha presentato 3 emendamenti su cumulo delle pensioni, pensioni d'oro, vitalizi, galleggiamento in caso di incarico pubblico che ti fa mantenere pure la pensione, tutti ovviamente dichiarati inammissibili. Sì. Siamo in un paese in cui togliere province alla Corte Costituzionale le impugna, metti lo stipendio ai manager della Corte Costituzionale te lo impugna, cioè io vedo una situazione talmente grave e qualcuno che sta provando a stare lì sul pezzo a martellare. Cioè, quindi il programma c'è, le cose le abbiamo... Io chiedo scusa, ma se Bersani dice il costo del lavoro è troppo alto, se Letta dice ridurre il costo del lavoro è necessario, questi sono grandi programmi, se Renzi dice, sapete qual è il problema? Il problema è che le imprese oggi non possono, in busta paga del dipendente, pagare l'INAIL per gli infortuni pagare un'assicurazione che li copre dall'INAIL che fa rivalsa su di loro, perché così pagano 2 volte per gli infortuni dei loro lavoratori, e bisogna decidersi, o si mette l'assicurazione obbligatoria o si paga l'INAIL e la si chiude lì, indicando anche un modo concreto, perché sa, nella busta paga dei lavoratori non c'è la voce costi da tagliare o cuneo fiscale, cioè da rimodulare come è stata costruita. No, ma è noi chiaro. Entriamo in questo dettaglio di provvedimento e noi non abbiamo il programma. Io capisco che Renzi potrà anche non essere simpatico, sì, ma da qui a dire che non ci sono proposte concrete. Capito Forchielli, queste sono le cose. Non è vero, dice Richetti, che Renzi non ha ce l'ha, le dice le cose che vuole fare. Basta, secondo me è un programma vero, è un programma che annulla il TAR, annulla il Consiglio di Stato. Ho capito, cosa facciamo? Questi sono i vincoli, capito? Il ricorso al TAR blocca tutto. Ho capito, un programma vero, annullare il TAR. Il problema vero è che questi ragazzini non hanno mai visto un paese competitivo, perché non gli è mai successo di vederlo, poverini. E allora se lo sognano. E comunque sia, parlano grosso e agiscono piccolo. Qui bisogna smontare un intero sistema legislativo. Il TAR deve essere annullato, con ricorso al TAR si blocca sempre tutto. Ma non è che si può annullare il TAR, bisogna riformare tu, ho capito. Vabbè, c'è un giudizio di prima istanza, basta, se no con ricorso al TAR si blocca sempre tutto. Ma se non si riescono a eliminare neanche le province, quando come si fa? Non si riescono neanche a eliminare due province. Ma possiamo anche eliminare la Costituzione. Perché è necessario un cambio radicale anche nella psiche. Sì, però io non ho capito la questione invece della Merkel, cioè perché andare dalla Merkel? Richetti dice, vabbè, ma è la persona, c'è sempre stato detto che l'Europa, la Germania è cattiva, eccetera, e quindi va dalla Merkel, non c'è nulla di male. Invece per lei Forchelli cos'è? Una roba che sta a cavallo del marketing. È una roba di marketing, capito? È stato furbo, perché è andato senza ambasciata, ha fatto vedere di avere rapporti suoi, sì. La Merkel ha fatto il Twitter, ossia si è mosso da furbo, mica male, capito? Una mossa sarà una vipera, marketing. Però... Come una vipera? Però sa muoversi. No, una vipera, no, bisogna aggiornare. È un rettile. Però sa muoversi. Richetti, no, dica, si difende. Fammi finire. Un aggettivo. Ho conosciuto Forchelli una sera, eravamo in Piazza Pulita e l'ho trovato di uno stimolante che, tutti i giorni non me ne prenderei. Segnalo che sto attraversando casa mia, che è il distretto della ceramica, perché ha appena detto che non abbiamo mai visto un paese competitivo, e siccome lui è di Imola e sa di che cosa stiamo parlando, beh, insomma, sti ragazzini, un paese che si sveglia la mattina e si è fatto da solo, e devo dire anche con delle istituzioni della politica che fanno pezzi di welfare locali, che con le aziende vanno oltre a un po' di politiche pubbliche che non combinano nulla, qualcuno l'ha visto, l'ha conosciuto. Però quelle di Forchelli non sono provocazioni. Ha ragione. La giustizia amministrativa, prima ancora che quella civile, che funziona così, che ha creato un sistema per cui tu hai giustificato la burocrazia per dire che ci sono le infiltrazioni, che c'è il rischio, tutte cose vere tra l'altro, quindi i controlli e quindi il DURC e quindi i permessi e quindi i processi autorizzatori di 1000 giorni. E allo stesso tempo hai creato il sistema più burocratico d'Europa, ecco perché andare dalla Merkel, insieme al sistema più inquinato dal punto di vista delle infiltrazioni di aziende sospette del mondo. No, ma chiariamo, Forchelli non dice mai provocazioni, Forchelli dice le cose sagge nel suo modo molto se mi dai del ragazzino che non conosce il procedimento del anche il presidente del Parlamento regionale, lei lo sa Milan, perché quanto abbiamo discusso dei vitalizi con lei. No, ma è chiaro. Richetti, per me potresti essere mio figlio, dai, queste cose fammele dire, dai. Vabbè. Sono andato su Wikipedia, ti ho studiato io, non vado mica... non sei mica dilettante. Qui siamo tra corregionali, non è che mica si può scherzare. Forchelli, cosa doveva finire? Cioè, aveva detto una vipera, un rettile, una mossa di marketing. Ma no, è andato... Dunque, allora... che Letta duri in Europa non ci crede nessuno. Un governo con Berlusconi è un grosso carico morale di credibilità in Italia, non piace a nessuno. Letta duri è una roba che non piace a nessuno. Per cui sono sicuro che la Merkel veda con simpatia l'emergere di un leader che parla diverso e che piace alla gente. E credo che la Merkel faccia molto bene a farsi un giro d'orizzonti sull'Italia. Io sono felice che lei spenda tempo con Renzi, capito? Per capire come gira l'Italia, per valutare questi giovani. Io sono molto contento. Per Renzi è stato un viaggio di marketing, sono sicuro, è un ragazzo giovane, sono sicuro che ha imparato moltissimo, per cui ben venga questo viaggio. Ragazzi, ormai l'Europa è spezzata a metà, ossia si va in Germania, docet la Germania, bisogna passare da lì. Siamo un provveditorato. La Merkel sarà rieletta con un grande risultato, lei tiene le fila del debito, tiene una parte importante della risoluzione dei problemi dell'Italia nel brevissimo termine. perché è inconcepibile che un paese come la Germania, che non ha inflazione, che ha avanzo di bilancio, che non ha, che avanzo di partite correnti, che avanzo di bilancio pubblico, faccia una politica di austerità, mentre in tutto il resto del mondo, dall'America al Giappone alla Cina, si fa una politica di quantitative easing, di grande liquidità. Cioè, questa è una roba inconcepibile, capito? 24 mattino. Carissimo Mira, ciao. Se sento parlare al governo adesso che parla di maiali, mica lavoro con i maiali, ho un maiale che assomiglia a Monti, poi una maialina che la come la Fornero, e adesso ho un altro maiale che somiglia a Giovannini. Mi spero che gli italiani le compra tutto un badile e parte per Roma e giù badilatte, badilatte, bisogna dare badilatte in da testa, stammi ben. Cercasi classe operaia per fare rivoluzione socialista. Per info e contatti rivolgersi al dottor Carlo Marx. Proletari di tutti i paesi, unitevi. Sono Maurizio, piccolissimo imprenditore con mille problemi addosso. Chi ha sempre gestito l'Italia fino a poco fa ha fatto i cazzi suoi, sempre, in continuo. E chi gestisce adesso è costretto a fare i cazzi suoi lo stesso. Non capisco perché non fanno nulla per fermare l'importazione o l'esportazione da parte degli esteri a bassissimo costo in Italia su tutto quello che noi costruiamo e che adesso poi andiamo man mano a non costruire più. Alberoni, oramai è passata anche per te l'età delle indulgenze. Sei vecchio, cerca di essere saggio, altrimenti finirai in un bel frogolo dove potrai partorire tutte le porcate che ti ostini a dire. Alessandro, io sono vecchio, ho visto la guerra, ma un ladrocinio come adesso non l'avevo visto mai. L'Italia sta andando alla rovina perché i tarli aumentano e le travi di legno si corrodono dal mangiare dei tarli. Occorre un buon antitarlo e ripartire puliti, poveri e onesti. Poveri e onesti, questo ci dice il nostro ascoltatore saggio che ha fatto la guerra. Siamo con Alberto Forchielli, del presidente Osservatorio Asia, siamo con l'onorevole del PD Matteo Richetti. Bisogna aggiornare lo zoo della politica, Falchi, colombe, tacchini, pitonesse, giaguari, caimani, oranghi e vipere. A questo punto, perché Forchielli ci ha detto la vipera. A questo proposito io vi voglio far sentire, Richetti, lei ha una idea compiuta sulla vicenda Calderoli, Oranghi, no, ministro Chiellini? Non si deve avere un'idea compiuta. L'altro giorno, vede, avevo un importante emittente nazionale, dovevamo fare un'intervista sui temi del lavoro e delle politiche industriali. E a un certo punto mi hanno telefonato mezz'ora prima dicendo non c'è spazio nel TG perché c'è questa roba di Calderoli. Questa è l'immagine di un paese che non riesce più a discutere del dramma che si registra accendendo la vostra segreteria, dell'idea che non ci sia più nulla da fare, dell'idea che si vive in un paese che mangia se stesso, dell'idea che ci sia una generazione che si divora il futuro perché i telegiornali si fermano a discutere di Calderoli. Ma insomma, voglio dire, la Lega ci ha regalato gli ultimi due anni in cui se parlava di sé doveva parlare di Belsito, di Trota e dei figli di Bossi, quindi adesso ha deciso di passare i prossimi due a insultare il mondo. Ma insomma, dico almeno su questo, ma non apriamo neanche il microfono, perché sennò rinunciamo a parlare delle cose serie. Sì, questo sì, però la frase di Speroni ve la devo far sentire, perché guardate che qui siamo a livelli, sentite Speroni quando gli dicono, ma insomma, questo paragone, sentite Speroni. Allora, la pantera di Goro è razzismo. Napolitano che animale è? La tigre di Cremona l'Africa. È razzismo. Ma napolitano che animale è? L'Africa al Congo, forse un po' strano, no? Nessuno ne ha mai parlato. Come? Ha un suono un po' più razzista associato all'Africa e al Congo. No, perché l'orango non è un animale africano. Eccolo lì, Forchielli, la pantera di Goro è razzismo, la tigre di Cremona, mamma mia, che livello, la pantera di Goro. Io credo che... Sa chi è la pantera di Goro? Sì. No. La pantera di Goro era Milva, la tigre di Cremona? Vanoni? No, Mina, me ne sono segnato. L'aquila di Ligonchio? Non lo so, la Zanicchi, e poi c'è l'usignolo di Richetti, l'usignolo di Cavriago invece. Niente. Cavriago mi manca proprio. Orietta Berti. Orietta Berti. Forchielli, insomma, vabbè, questo è. Che dobbiamo dire di Calderoli? Così la chiudiamo lì. Ma no, avremmo già dovuto preparare una teca per Calderoli, perché nel 2006 lui fu artefice di questa legge elettorale. Cioè, per cui, il Porcellum. Quindi Calderoli dovrebbe già essere ricordato nella storia italiana per il suo contributo fondamentale, perché sono anni che stiamo lottando e perdendo tempo per disfare una roba che fece lui, una roba vigliacca, per cui sapendo che creando questo sistema sarebbe stato molto difficile per chiunque avere la maggioranza, e lo fecero in previsione di un'eventuale vittoria di Prodi, che poi non fu tale come si pensava, però già per questi meriti io credo che andrebbe in una teca o in una gabbia vicino a quello degli Orango, se dove appartiene. Lui non ha fatto altro che avvocare, è freudiano secondo me questo fatto degli Orango, e dove lui vorrebbe essere. Sì, sì. La differenza è che gli Orango li vogliamo mantenere, perché sono in via di estinzione, roba da WWF. Io non so se vogliamo estendere la copertura WWF anche ai Calderoli, comunque per il momento teniamocelo lì. Intanto io vi leggo l'apertura del Sole 24 Ore, per tornare alle cose serie. Regioni, un prelievo da 138 miliardi, Richetti, il federalismo, dal 70 a oggi la pressione fiscale è aumentata di 30 volte, lei che è stato anche in regione, alla regione non è che è colpa della regione Emilia Romagna in questo caso, questo è il federalismo, questi sono gli effetti del federalismo lasciato. Sì, il federalismo a Milano mai attuato, né quello fiscale né quello amministrativo, anzi Sturzo ci ricorderebbe che siamo pienamente dentro le tre male bestie, centralismo, partitocrazia e corruzione, quindi io mi auguro che poi, insomma, temo che Forchielli abbia ragione, non so quanto questo governo potrà, ma non tanto per Calderoli o perché qualcheduno attacca da dentro o da fuori, perché questo governo dura. Se riesce a fare qualcosa, se galleggia non può andare avanti. L'altro giorno il ministro Delrio mi è sembrato molto intenzionato a riprendere questi temi, che però non sono cose che realisticamente non raccontiamo fanno in un paio di mesi. Quindi insomma, lei sta dicendo che anche per lei il governo è difficile, non la vede ottimista, insomma? Beh, insomma, io siedo in Parlamento da qualche mese. Sugli F-35 si va in crisi per SEL, sul finanziamento pubblico ai partiti si va in crisi per il Movimento 5 Stelle, sulla giustizia si va in crisi per il PDL, o il PD diventa un po' l'architrave di questa alleanza di governo, oppure non c'è nulla da fare, dall'altro canto o questo governo individua una politica economica chiara dove giorno dopo giorno c'è una direzione di marcia che riduce costi, semplifica, aggredisce la spesa pubblica, oppure se accendiamo la segreteria ancora molte mattine, il contenuto è questo, insomma, la soluzione è presto tirata. Vabbè, io mi devo fermare qui. Forchielli, grazie per essere stato con noi, anche in Italia, so che è più difficile la sveglia, ma insomma la lasciamo ai suoi impegni, così come l'onorevole Matteo Richetti. Grazie a tutti, ci troviamo dopo il giornale radio delle 7 per la rassegna stampa. Sono arrivati i giornali. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, cari ascoltatori, le 7:14 minuti, siamo nuovamente in diretta con voi per leggere i giornali che oggi siamo andati a comprare in edicola, voi dite, e chi se ne frega, noi tutti i giorni, voi italiani andate a comprarli in edicola, noi abbiamo questo privilegio raro, insomma quando uno arriva qua trova la mazzetta, si chiama così, dei giornali, e oggi invece c'è solo Sole 24 Ore, ovviamente siamo nella casa del Sole 24 Ore, quindi quello lo abbiamo trovato facilmente,

e dire buongiorno al mattino a chi si presenta e buonasera quando finisce la giornata. E durante la giornata, insomma, come che fanno? Ingannano un po' il tempo, passano, si girano i pollici, fanno il solitario al computer. Insomma, questa è la denuncia che ha fatto il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni, che saluto, è con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Ma è davvero così? Insomma, intanto ci quantifichi quante sono queste persone che avrebbero questo compito o non compito al Ministero? Ma guardi, quello che ho potuto vedere è che sono qualche unità, però credo che sarebbe più utile e opportuno ampliare un momento il discorso. Questo è un ministero che, come giustamente e anche molto fortemente detto il ministro, è in bancarotta. Allora, dovendo questo ministero essere, questo fa parte del programma di tutti i partiti, devo dire che su quello c'è un accordo di tutti, uno dei grandi motori di rinascita di questo paese, perché valorizzando il patrimonio culturale certamente si può dare una grossa spinta sia al turismo che allo sviluppo che all'occupazione, è molto difficile che questo avvenga se non c'è o una grande iniezione di fondi, che vista la situazione è abbastanza improbabile, oppure una riorganizzazione. Io vorrei non personalizzare su quei 5-6 custodi che ho visto coi miei occhi, perché ce li ho evidentemente davanti tutti i giorni, e che non sono loro i responsabili. Sì. La responsabilità è quella di un sistema che per decenni ha creato questa situazione, amministrazione, una macchina totalmente inefficiente che secondo me oggi noi non possiamo assolutamente più permettere. No, ma certamente non sono quelle persone, non vogliamo fare non si vuole fare la guerra a 5 persone, è il sistema che ha prodotto una situazione intollerabile, diciamo. Però queste persone, cioè lei si è accorta, perché sono persone, tra l'altro credo proprio davanti anche ai vostri uffici, e hanno il compito proprio di guardare i corridoi, non hanno... Beh, sono persone che sorvegliano il passaggio del corridoio, che però io credo che avrebbero la competenza e la capacità di fare lo stesso servizio, la stessa, diciamo, ruolo di sorveglianza laddove invece ci sono delle gravi carenze. Dobbiamo dire con molta chiarezza una cosa: questo ministero tra 2 anni comincerà a chiudere i musei per mancanza di personale. Allora sarà inevitabile, o gli archivi o le biblioteche, sarà inevitabile a un certo punto affrontare un confronto nel quale si dirà: benissimo, se c'è un museo che ha 10 visitatori e un altro che ne ha 100.000, evidentemente sto parlando per paradossi, sì, necessariamente ci sarà la necessità di fare una riorganizzazione delle risorse umane, cercando di favorire quello che ha più persone. Però, sottosegretario, i sindacati, io ho davanti qui una nota per esempio della Confsal UNSA, sindacato unitario, che è stato molto duro a dire: intanto il sottosegretario non sa che chi è usciere non può fare il custode, sono mansioni diverse, quindi non si possono fare agli uscieri i custodi di musei, per esempio. Ma senta, voglio dire, queste sono decisioni che si prendono a priori, io non vedo perché questo non possa avvenire, anche se avviene attraverso un percorso di qualificazione per un lavoro che ha alcuni aspetti che non sono completamente identici tra di loro. Quello che io dico è che un ministero come questo, se potesse assumere 1.000 persone, c'è anche una premessa da fare: in questo ministero mancano totalmente gli archeologi, gli storici dell'arte, i funzionari, il personale delle sovrintendenze, gli architetti, cioè un ministero che è privo di personale a qualunque livello uno lo guardi. Se si potessero assumere 1.000 persone domani, il problema sarebbe risolto tra custodia e diciamo risorse umane dedicate a competenze specifiche, il problema sarebbe risolto. Ma è un po' difficile che questo avvenga in un ministero in bancarotta. In un'azienda di solito cosa si fa? Si chiudono dei reparti e si mandano e si via le persone. Ma la bancarotta ce la può quantificare? Cioè, perché detta così quello che ha dichiarato, certo, il ministro Brai ha fatto un'analisi estremamente opportuna di quello che è la situazione di un ministero che ha visto i propri fondi tagliati a seconda dei vari capitoli dal 30 al 40, addirittura in certi casi al 50%, che non riesce a spendere in maniera veloce le poche risorse rimaste. Io un altro punto che ho sollevato e che secondo me è altrettanto importante è quello del fatto che le procedure proprio le procedure amministrative dentro le quali si muove un ministero come il nostro richiedono sempre tempi lunghissimi e anche questi sono costi. Velocizzare queste procedure e riorganizzare le risorse umane in un modo che possa consentire di aumentare anche l'offerta, perché pensiamo una cosa, quanta gente dice ma perché d'estate con i turisti non aprite i musei di notte, non ampliate l'orario d'apertura di certi monumenti, non è possibile, ma questo non è fattibile, non è fattibile, non è assolutamente. Senta, ma a queste persone lei sinceramente ha anche detto qualcosa, cioè se, ha provato a dire scusate voi cosa fate qui? O no? No, non gliel'ho detto, e poi bisogna anche qui fare un po' la cronistoria di quell'articolo che peraltro contiene molte informazioni che io non ho dato perché io non ho mai parlato di come loro passano il tempo. All'assemblea dei nostri sostenitori di Scelta Civica io ho voluto citare un caso che ho davanti ai miei occhi, che è quello che indica una pubblica amministrazione che richiede, ma sto dicendo delle cose come dire anche abbastanza banali, che richiede profonde ristrutturazioni per poter primo rispondere a quello che chiedono i cittadini e secondo affrontare una fase gravissimamente recessiva nella quale evidentemente non torneremo mai più a quello che erano le risorse di 20 anni fa. Quindi all'interno di un discorso fatto a Scelta Civica in cui così speravo e così sarà anche di impegnare il partito cui io appartengo a fare una proposta radicale in questo senso che non riguardi il MIBAC ma che riguardi in generale la pubblica amministrazione, è stato fatto questo esempio e poi questo esempio come sempre succede è diventato un articolo. Quindi lei non ha detto che è vero che cuciono, che fanno no, il cucito? No, io quello non l'ho mai detto, lì hanno avuto delle fonti. Però delle è vero o no? Perché pare che rammendino, per passare il tempo, rammendino un pantalone. Ma quello io non l'ho visto, guardi, io ho solo visto dei custodi, oltretutto come ho anche dichiarato, estremamente cortesi, perché non ho mai avuto modo di trovare nulla che non fosse assoluta cortesia. Però non molto produttivo. Però passano delle ore infinite e credo che sia anche abbastanza tutto sommato frustrante, perché penso che ciascuno di loro abbia anche delle capacità individuali, a guardare un corridoio in cui non è che al Collegio Romano c'è il passaggio di Via del Corso, voglio dire. Non succede granché, non c'è un gran via vai. Allora forse un numero così alto di uscieri che sorvegliano quel corridoio è meno giustificato in un momento di carenza di risorse, quando magari a pochi metri c'è un museo che ha una sostanziale carenza di custodi. Ora è vero che tra uscieri e custodi non parliamo dello stesso lavoro, ma non parliamo neanche di due lavori separati da una distanza siderale. Questo sì. Senta, sottosegretario, allora fa bene Matteo Renzi ad affittare il Ponte Vecchio e a capitalizzare economicamente un bene culturale e architettonico così prestigioso? Perché anche con la cultura bisogna guadagnare? Ma guardi, io sono su quello abbastanza portata a guardare il modello anglosassone. Nei paesi anglosassoni, e nessuno si scandalizza, quando il bene è chiuso al pubblico, mi riferisco per esempio a un museo o mi riferisco a un monumento dopo l'orario di chiusura, nessuno impedisce che chi dirige o chi amministra quel bene possa domani affittarlo per delle circostanze che naturalmente siano compatibili con la natura di quel bene. Però il Ponte Vecchio è il Ponte Vecchio, quello. Ecco, il Ponte Vecchio è un caso leggermente diverso, nel senso che è un bene che è sempre aperto e fruibile, e allora il fatto di chiuderlo evidentemente sottrae la fruibilità al pubblico. Quindi questo lo vede un po' più personale. Sì. Beh, questo lo vedo come dire un po' più difficile, anche se sono sicura che da parte del sindaco Renzi non ci fosse nessuna delle intenzioni malevole che gli hanno appiccicate addosso, ma siccome so che anche a me quando io apro bocca mi appiccicano intenzioni malevole, non sono sorpresa che sia successo a lui. Perché questi però giornalisti, voglio dire, ecco, sul Ponte Vecchio ho qualche piccola perplessità, anzi grande perplessità, perché è un bene che non ha orari d'apertura. Sì, deve, è un ponte, quindi dovrebbe essere sempre fruibile per tutti. La fruibilità dovrebbe essere abbastanza garantita. Se invece uno vuole, come fanno tranquillamente in Inghilterra o al Louvre o in musei tedeschi, che una sera venga fatto un pranzo dentro una sala di un museo che per questo lo sponsor o l'organizzatore di questo pranzo paghi un'enorme cifra che va a vantaggio del mantenimento del museo, io su questo non mi scandalizzo affatto. Il museo è chiuso ed è un'attività di sponsorship come un'altra. Senti, nel ringraziare la sottosegretaria, le faccio una domanda perché è, per qualcuno è cultura anche questo. Ha visto che Miss Italia non verrà più trasmesso dalla RAI, la Presidente della Camera Boldrini ha detto bene, è un segnale positivo. Poi in TV la immagine delle donne è quella di, che appaiono molto spesso, sono di donne mute e nude o seminude. Lei da donna e da esponente della cultura condivide o no questa analisi della Presidente? Ma la condivido nel senso che io stessa non posso non essere abbastanza sconcertata dall'immagine che della donna è stata data per molto molto tempo nel nostro paese e che è un'immagine che evidentemente qualunque donna di buon senso non può che rifiutare. Poi detto questo, Miss Italia fa parte di una storia italiana abbastanza di costume che tutti noi abbiamo vissuto. Non è cultura? Non è cultura anche Miss Italia? Cultura è, come dire, è storia di un paese, anche quella. Da Miss Italia sono uscite grandi attrici, in passato così è stata proprio così un nido in cui si sono espressi dei talenti che poi sono anche diventati molto importanti e molto conosciuti. Però ha ragione la Presidente Boldrini oggi, perché è vero che noi da ormai moltissimi anni in Italia abbiamo soprattutto un'immagine alla televisione delle donne abbastanza così, abbastanza rivoltante, nel senso che si può anche pensare che la donna venga proposta in quel senso, però allora ci deve essere l'alternativa, mentre per molto tempo questa alternativa non c'è stata. Quindi mi associo alle parole della Presidente, pur riconoscendo una certa valenza alla storia di Miss Italia nel costume italiano. Allora io intanto la ringrazio, buona giornata ovviamente, e le dico buongiorno anch'io come quell'usciere che incontra le dirà buongiorno tra poco se va al Ministero. Sì, grazie. Grazie a Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario ai beni culturali al Ministero della Cultura in Italia. Noi tra 5 minuti dopo la pubblicità e il meteo torniamo su questa vicenda, la vicenda Calderoli-Chieng. Sì, ne parliamo, perché è vero, non sono questi i problemi dell'Italia. Di cosa parlate? Beh, i giornali da 2 giorni non parlano, non dico d'altro, ma molti giornali ancora aprono su questo tema. Proprio anche ci vogliamo chiedere se davvero sia il caso di continuare a insistere su questo tema, se non stiamo veramente assistendo a un impazzimento. Qualcuno dice addirittura, come oggi La Padania che ho davanti, la cito perché avremo la direttrice della Padania con noi tra poco, titola così: Calderolistan, cioè si parla di Calderoli per offuscare, appannare la vicenda ben più scandalosa del Kazakistan che rischia di far cadere il governo. Allora, la pensate così? Oppure è giusto parlare di una cosa così grave? Nonostante tutta la gente dica basta, basta queste cose, no? C'è sempre qualcosa di più importante per qualcuno di cui parlare. Ogni giorno scegliamo un tema e oggi è questo. 24 mattino. Allora, sono le 8:35 minuti, eccoci qua. Sono molti ascoltatori che ci scrivono e ci dicono ma basta, alcuni ascoltatori, ma perché parlate di questa cosa, Calderoli, Chieng, insomma, ci sono cose più importanti, c'è il lavoro che... Ma certo, ma siamo tutti d'accordo che ci sono cose più importanti, che l'Italia non penda da quella che è stata una battutaccia davvero sbagliata, fuori luogo del vicepresidente del Senato Calderoli. Ci sono problemi più importanti, ma evidentemente sono 2 giorni che i giornali trattano di questo tema, perché non è che siccome ci sono cose più importanti si può passare tutto in carrozzeria, anche in carrozza, tutto quello che viene detto, in cavalleria. Saluto e parliamo di questo tema il direttore della Padania, Aurora Lussana. Buongiorno direttore, eccoci qua. Eccomi qua, buongiorno a voi e grazie per l'invito. E saluto anche l'onorevole del Partito Democratico Jean-Léonard Touadi. Buongiorno onorevole Touadi, eccoci. Sì, buongiorno a tutti voi. Allora, ecco, del tipo la teoria sulla Padania, almeno leggo il titolo, è Calderolistan, cioè, direttore, chiariamolo subito, si parla di questo per non parlare della vicenda kazaka. Questa è la linea della Padania? Esatto, da 48 ore ormai i militanti dell'antirazzismo, i professionisti dell'indignazione, quelli che vorrebbero di fatto imporre l'ortodossia filo-immigrazionista, suonano questa gran cassa al fine di criminalizzare Calderoli per una battuta che vi assicuro è profondamente becera. Io sono una ragazza cresciuta nei bar della Valseriana, di battute così un po' da becerume, insomma, ne ha sentite? Sì, diciamo di sì, contro i bassi, contro gli altri, contro le donne, contro quelli biancotti, contro quelli, ne ho sentite di ogni. Ripeto, una battutaccia un po' becera, alle feste della Lega, d'altronde non è che si parla di epistemologia o ermeneutica medievale, si fanno anche un po' di battutacce. Io personalmente preferisco leggere l'antropologa Ida Magli, parlare di lotta all'immigrazione clandestina. Sono profondamente anti-immigrazionista. Detto questo, ripeto, questa battuta becera è veramente detta dal vicepresidente del vicepresidente del Senato, dovrebbe per questo dimettersi per una battuta. Ma credo che la battuta becera ha avuto poi ieri un esito altrettanto becero da parte del Presidente del Consiglio. Il nipotissimo Enrico Letta, con quella sorta di minaccia al governatore della Lombardia, al Presidente della Giunta Lombarda Maroni, del tipo: ah, se non fate dimettere Calderoli ci sarà una sorta di rappresaglia, uno scontro durissimo. L'Expo. E qui vorrei capire No, non l'ha messa proprio così, però la citazione dell'Expo è vero, e secondo lei è vero? Ma scusi, la Lombardia è l'undicesima area industriale del mondo. Noi lombardi versiamo ogni anno un assegno a fondo perduto di 11.000 euro allo Stato centrale. Siamo ovviamente l'ammortizzatore sociale di questo paese, dobbiamo anche così subire questi ricattini. Ripeto, la battuta becera di Calderoli è molto rassicurante e appagante per la mentalità popolare. Oggi la più grande infamia nella nostra contemporaneità è avere questa lettera scarlatta della R di razzismo. Sì. Quindi dagli perché dice, perché dice molto rassicurante dal punto di vista popolare? Ma perché le anime belle, no, i ben pensanti, si sentono molto rassicurate nel dagli al razzista. No? Il Manzoni ci ricorda dava il dagli all'untore, va bene nella peste del 600 dagli all'untore, nella nostra contemporaneità dagli così ci fa sentire migliori, no? Anche la Chieng in aula, nella prima sua di fatto relazione in aula, che era un question time di ormai un mese e mezzo fa, disse: io rappresento l'Italia migliore, voi leghisti siete un po' l'Italia migliore, peggiore. Ma ci sta, criminalizziamo Calderoli, inventiamoci il Calderolistan, così non parliamo dei pasticci del governo del nipotissimo, non parlavamo del nipo, lo chiama il nipotissimo, lo chiama, mi piace questa definizione, il nipotissimo. Eletta, quindi ha i suoi problemi interni, dagli F-35 gli era in Senato, lo spread, che siamo ai livelli dell'estate del 2011. No, ma è chiaro, però di questi temi si parla, cioè adesso per due giorni se ne sta parlando da giorni, anche qua diciamo che il governo non fa granché, dopodiché però avviene questa battuta becera. Ecco, onorevole Tuadì, le piace l'idea? Il direttore Lussana dice è una battuta becera, la liquidiamo così, come una battuta della Valseriana, come se ne sentono tante nei bar della Valseriana, che è una valle del Bergamasco. Sì, conosco bene la Valseriana. Volevo dire questo: Calderoli non è criminalizzato da nessuno, da un po' di anni a questa parte fa un po' tutto da solo, dalla vicenda della vignetta fino all'ultima battuta, ma la Lega in generale, le dichiarazioni di Boso della settimana scorsa, che gioiva all'idea che possano affondare i barconi, la consigliera che si auspicava che qualcuno possa violentare la Chieng, non credo che tutto questo possa essere così banalizzata e nascosto, una specie di rimozione collettiva ad altro, non è così. Io sto registrando che in queste ore, in questi giorni, mi hanno chiamato la BBC, mi hanno chiamato giornali francesi, mi hanno chiamato Al Jazeera. È difficile pensare che tutti questi siano parte di un complotto per difendere il governo Letta e altre cose. Si tratta di paesi democratici, civili, che hanno imparato attraverso i secoli, gli anni, ad avere un alfabeto dei rapporti interetniche. Ci sono delle cose che appartengono a una storia dolorosa dell'umanità, che si chiamano apartheid, che si chiamano schiavitù. Questo è il linguaggio da Ku Klux Klan, che la Lussana va a rubricare come battute da bar. Bene, si possono fare in Valseriana, non si fanno quando uno è vicepresidente del Senato. È questo il punto, cioè l'istituzione. Senta, ma tu di che cosa le chiedono Al Jazeera, CNN, BBC? Le chiedono, immagino, ma l'Italia è un paese razzista per queste frasi? Immagino che una delle domande sia questa, e lei cosa risponde? Soprattutto la tensione si accentua sul fatto che questo personaggio è il vicepresidente del Senato e quindi si chiedono come mai dentro le istituzioni italiane ci siano queste persone che hanno un linguaggio non solo triviale, non si tratta di buon gusto, si tratta di una costruzione sociale del nemico che ha degli effetti devastanti sullo sforzo che sta facendo questo paese nell'accreditare dei rapporti interetnici basata sul dialogo, sull'accettazione delle regole, sulla costruzione di un modello italiano. Tutto questo viene vanificato da una battuta che secondo me anche in valseriana sta scandalizzando qualcuno. Io vorrei chiedere questo al direttore della Padania Aurora Lussana, cioè la critica alle politiche della Chieng è una critica assolutamente legittima, se voi pensate che la Chieng stia facendo delle politiche sbagliate in termini di integrazione, di immigrazione, uno lo può dire, lo ius soli, il dibattito. Il problema è che direttore, la Chieng viene presa di mira, diciamolo francamente, per esempio non dalla Lega, ma sono apparsi dei cappi ieri a Pescara, cioè perché è nera, questo è il dato di fatto, viene presa di mira perché è nera, non per quello che dice o non solo per quello che dice ormai sembra quasi passato in secondo piano, o no, mi sbaglio? Io personalmente da 3 mesi con il mio quotidiano, con Telepadania, con i media della Lega sto facendo un'aspra critica alle politiche sull'immigrazionista della Chieng. E questo ci sta. Io attacco la Chieng a prescindere dalla sua origine etnica. La Chieng non può godere di un'immunità razziale, per cui nel momento in cui accuso la Chieng di qualunque cosa mi si pone come alibi il fatto, vabbè, ma scusa, ma tu l'attacchi in realtà perché è nera. L'immunità razziale non è tollerabile, l'immunità etnica non la possiamo concedere a nessuno. Ho capito, ma mi scusi, però Calderò, a me non mi interessa se la Chieng viene dal Katanga. Lei è al servizio di una politica filo-immigrazionista che per me di fatto vuole accettare i popoli interessa. Mi scusi, a lei non interessa, però Calderoli dice sta bene in Congo, altri leghisti hanno detto ma se ne vada a fare il ministro in Congo quando è cittadina italiana col passaporto italiano. Oppure... Ma è questo motivo di così profonda indignazione? Ieri persino le donne di Se non ora quando si sono svegliate? 10 giorni fa con lo svuota carcere hanno messo ai domiciliari gli stalker, non le abbiamo sentite. Ripeto, alle anime belle del nostro paese, no? È estremamente rassicurante inventarsi questo cliché del leghista, brutto, sporco, cattivo, mamma come ci sentiamo belli a dagli all'untore o dagli al razzista, ai beceri leghisti. È rassicurante, va bene così, sì. Ci stiamo a essere minoranza nel paese, però veramente per una forte insofferenza che può essere manifestata, ripeto, con battutacce, io non le farò mai, no, perché chiaro, chiaro, la Chieng sia del Katanga. O che venga, ma questo è il punto, questo è il punto. Non mi interessa. Ma questo è il punto, io sto dicendo, lei la critica dal punto di vista delle politiche e questo è legittimo. Ma lo fate dei giovani simpatici napoletani, mi hanno tirato giù il server della Lega per riempirmi di insulti quando avevo attaccato il sindaco di Napoli. Nel senso, se uno viene attaccato per le sue origini etniche, cosa dobbiamo fare? C'è la legge Mancino nel nostro paese, la più grande aberrazione della nostra contemporaneità è il razzismo. Non si può criticare nessuno per le sue origini, è come la storia del Balotelli. Allora, io sono una che quando non segna, mi arrabbio, non è che mi arrabbio col Balotelli perché ha l'origine africana, a parte che poi ora è bresciano e da Bergamasca magari ce l'ho più con i bresciani che con gli africani, facciamo questa battuta. Gli antipatico perché è bresciano, non perché Eccola, così poi arriveranno i bresciani a tirare giù il server per insulti. Allora, quindi, e anche lì, ecco, a proposito del Balotelli, che la Chieng prende come modello il Balotelli, io avrei proposto tantissimi straordinari immigrati che lavorano nel nostro paese, sono persone serissime che fanno fatica. Ma sì, è l'emblema di una persona nata in Italia per dire Balotelli è italiano, gioca, è centravanti anche della nazionale italiana e quindi è giusto che il processo, diciamo, della cittadinanza italiana debba essere velocizzato. È un modo anche di dire, cari italiani che combattete contro quest'Italia, dite del meticciato eccetera, in realtà non vi accorgete che già la società è molto cambiata, basta entrare in una scuola elementare, se si vive soprattutto in una grande città come Milano. Facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo dall'onorevole Tuadì, magari lo facciamo sentire anche Calderoli quando rientriamo, che cosa esattamente ha detto in questo convegno, in questo comizio a Treviglio. Allora siamo con il direttore della Padania, Aurora Lussana, e con l'onorevole del PD Gianluca Tuadì. Onorevole, lei ha sentito poi l'audio, glielo faccio sentire Calderoli esattamente cosa ha detto ieri sui siti, c'era, forse l'ha sentito, ma facciamolo sentire anche ai nostri ascoltatori. Ogni tanto smanettando con internet apro il governo italiano e capito quando viene fuori da King, io resto secco. Io sono anche un amante degli animali, per amor del cielo. Ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però i lupi anche ci ho avuto. Però quando vedo uscire delle, non dico che, delle sembianze d'orango, io resto ancora sconvolto. Non c'è niente da fare. Le sembianze d'orango, onorevole Tuadì, allora dice Aurora Lussana, insomma basta questi ben pensanti che pensano sempre che non si possa per le origini etniche di una persona fare delle critiche, lei cosa replica a questo? Ma io penso che la stia buttando un po' in casara, il vero problema qui è quella di una Lega smarrita nel post Bossi in crisi di identità e che si sta aggrappando a quegli elementi così elementari, triviali del razzismo e della xenofobia che hanno dato i risultati nel passato, ma come dimostrano le ultime elezioni non funziona più. Pensavamo che l'arrivo di Maroni avrebbe segnato, come dire, un cambio di passo nel linguaggio, nei contenuti della Lega, e invece torna di nuovo a questa rendita di posizione della xenofobia che non funziona più evidentemente. Quindi stiamo parlando di qualche cosa che appartiene al passato. La Lega di oggi deve dirci qual è la natura di questo partito, se è una succursale del Ku Klux Klan oppure di qualche altro partito xenofobo, lo dica chiaramente, però non si nasconda dietro i comizi con il doppio linguaggio, un linguaggio a Roma nelle istituzioni e un altro linguaggio invece nelle valli. Ma questo è sempre stato un po' così, la Lega di lotta e di governo, storicamente. Questa cosa non sta più in piedi, Le chiedo questo. Nelle istituzioni devono rispettare quello che è l'alfabeto istituzionale dei rapporti e della tenuta, quello che la Costituzione chiama esercitare il mandato con decoro e dignità. Anche se parlano nelle valli bergamasche. Le chiedo questo, onorevole Tuadì, lei, lo dico anche agli ascoltatori, magari che non la conosco, è originario della Repubblica del Congo, tra l'altro vogliamo distinguere, non è la Repubblica Democratica del Congo, è il Congo Brazzaville, non è il Congo quello della ministra Kyenge. Lei in Italia da quando? Da che anno? Sono 1978. Dal 78, quindi altra epoca, eravate diciamo in pochi migranti. Alcuni dei di quelli che ci sentono ancora non c'erano, quindi io devo chiamare loro extracomunitari sono quelli che sono nati dopo. Episodi come quelli della ministra Kyenge li ha vissuti anche lei? Lei è stato anche assessore al Comune di Roma, adesso è un deputato della Repubblica, ne ha subiti? Io mi sono beccato a dicembre del 2012-11 se ne ritorni in Congo, sempre da parte di Calderoli, su una vicenda romana. Avevo stigmatizzato una cartolina che metteva Roma praticamente nel nord. Quindi anche con lei Calderoli sarebbe. Sì, me lo metto proprio come medaglia, perché è un onore il fatto di essere attaccato da un essere così poco istituzionale e poco colto, perché se fosse minimamente colto avrebbe saputo che l'animalizzazione dell'avversario ha fatto parte del linguaggio del Ku Klux Klan, dell'apartheid in Sudafrica. Lei sa cosa dice oggi l'onorevole Fucsia del Movimento 5 Stelle, magari poi la incrocia, dice in un'intervista al Secolo XIX, dice: ma che male ha detto Calderoli, insomma, povero orango, io l'orango gli voglio bene. E alla domanda, scusi, ma anche lei pensa che Kyenge assomiglia a un orango? Ci potrebbe stare, risponde così, e anche lei entra in questo gioco, anch'io associo le persone agli animali, l'ex senatrice Gambaro è una mucca, il mio capogruppo è un camaleonte e così via, insomma. Lei pensa, direttore, che siamo oggi nel 2013 e la vicenda Trevor negli Stati Uniti sta ancora suscitando grandi violenze e polemiche tanti anni dopo la lotta per i diritti civili. Immaginate un paese come l'Italia che sta ancora all'inizio di questa fase di costruzione di rapporti interetniche che siano basati sul rispetto e sul dialogo. Se cominciamo dal passo sbagliato, dalla stigmatizzazione dell'alterità e anche dalla diabolizzazione, perché questo avviene, perché come uno apre bocca diventa il nemico, noi stiamo portando questo paese verso una stagione di conflittualità di cui non avevamo bisogno, perché l'anima profonda di questo popolo non è quello che descrive la signora Lussana. Su questo, direttore Lussana, la questione è l'analisi che ha fatto politica di Tuadì, cioè, è la Lega è in crisi di consensi e quindi la butta su vecchi temi. Allora, la Lega da 20 anni è anti-immigrazionista, non è che ce lo siamo inventati adesso. Tuadì offende la sua intelligenza con questa autocommiserazione, con questo vittimismo. Io sono convinta che se vive nel nostro paese, è diventato anche deputato della nostra Repubblica, è la più palese dimostrazione che nel nostro paese non solo c'è integrazione, ma soprattutto c'è opportunità per chiunque arrivi nel nostro paese. Noi con la Padania questa settimana abbiamo raccontato come le strutture sanitarie lombarde assistano tutti i clandestini che con un tesserino si presentano alle ASL, ai pronto soccorsi e ricevono anche da clandestini tutte le cure, non solo le prestazioni urgenti. Si tratta di 60 milioni di euro che lo Stato centrale dovrebbe dare alle ASL lombarde per queste prestazioni sanitarie. Siamo un paese estremamente accogliente, estremamente ospitale, non lo dico io Aurora Lussana, lo dicono i milioni di stranieri che vengono nel nostro paese. Se fossimo un paese razzista, xenofobo, inospitale, poco accogliente, non avremmo milioni di stranieri. Se vivono qui hanno grandi opportunità, diventano ministri, diventano deputati della Repubblica, vanno a giocare nella nazionale di calcio, se ne sarebbero già tutti andati. Ma e che male c'è in questo? Cioè, ma non tollero che si venga a raccontare di un paese inospitale. Il linguaggio della Lega vi offende, ma sì, ci può stare, siamo un po' così, siamo un po' beceri, ma va bene, quindi siamo l'Italia peggiore, dobbiamo essere portati ma no, in campi non è questione di no, ma non è questione di Italia peggiore, la questione è fate tutte l'ACI, me l'avete spiegato voi benissimo a Radio 24, l'ACI fa addirittura dei corsi di guida sicura gratuiti agli stranieri in Italia. Guarda un po' come siamo accoglienti, no? Se vado all'ACI e chiedo una guida sicura, che vorrei farmi una bella guida sicura per la mia 500, se la paghi agli stranieri è gratuito. No, però la questione è il paese straordinario. Tuadì è troppo intelligente per negare che noi siamo un paese straordinariamente accogliente. Questo sì, però non avremmo la gente che vuole entrare in Italia, Giardino del Mondo, alle porte, alle frontiere o a Lampedusa. Però direttore, e io qui mi devo fermare perché il tempo finisce, la questione è sempre, la domanda che rimane è: fate tutte le critiche costruttive che volete, nessuno ve le nega, ve le vieta, sulle politiche, anche le politiche di immigrazione del ministro Kyenge, però insomma, le battutacce da Osteria o da Valseriana, o meglio le battute tipo queste, soprattutto dal vicepresidente del Senato, uno può fare le critiche costruttive anche senza scadere in questo tipo di battute, non sono necessarie, ecco, tutto qui, era questo il senso del discorso. Comunque mi devo fermare, vi ringrazio Aurora Lussana, direttore della Padania, e Jean-Léonard Tuadì, deputato del Partito Democratico. Potete riascoltare tutto come sempre sul nostro sito radio24.it. E da Alessandro Longoni, Anita Panizza, un grazie, hanno curato la trasmissione di oggi, così come Carmelo Lauricella, che ritroviamo domani in regia puntuale sveglissimo alle 6:30. Ventiquattro mattino.